Non lasciare che ti spenga questa giostra senza senso. Cammina forte anche se tremi, sii la voce tra i silenzi. Non cercare mai l'approvazione in chi non conosce il cuore. E se il mondo dice fermati, tu corri ancora più veloce. La tua luce non si spegne neanche dentro la tempesta. Brilla, Ian, come il sole in libertà. Non adattarti mai, tu sei unicità. Ama forte, vivi tutto senza mai paura. Io sarò con te sempre oltre ogni notte scura. Lascia in fronte non cicatrici, scegli sempre vie sincere. Non c'è gloria nel restare dove il cuore non appartiene. Tu sei nato per volare, non per vivere a metà. Segui il battito che hai dentro, è la tua verità. E se sbagli non ti giudicare, ogni passo è un nuovo fiore. Se ti perdi guarda il cielo, ci sarà sempre il mio amore. Sarò lì in ogni momento.